Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, comunicazione e informazione, due temi o due aspetti dello stesso tema che forse sembrano più per iniziati che non per il largo pubblico, ma in realtà proprio l'evoluzione che sta avendo luogo in questo settore, quello della comunicazione, sta cambiando il modo in cui noi guardiamo al mondo e in fondo ci guardiamo fra di noi. E allora vi segnalo un libro che trae spunto per il titolo dal nome di uno dei maggiori, forse il più famoso studioso del Novecento di comunicazione mass media, cioè il canadese Marshall McLuhan, autore del celeberrimo slogan Il mezzo e il messaggio, con il quale l'autore voleva sottolineare la rilevanza che lo strumento di comunicazione assume nell'attribuire valore all'informazione che quel mezzo diffonde. E McLuhan non abita più qui, appunto, è il titolo del libro di Alberto Conte, che è un protagonista della comunicazione, è stato anche consigliere d'amministrazione della RAI. Sottotitolo del libro è I nuovi scenari della comunicazione nell'era della costante attenzione parziale. È pubblicato da Bonlatti Boringhieri, 308 pagine, 22 euro. Nella prefazione al libro, un altro grande studioso della comunicazione, cioè Derrick Kerckhove, sottolinea vari meriti del libro di Conte, tra cui uno, e scrive De Kerckhove che la ricerca di Conte ci porta a riflettere sul disagio generale che scaturisce dagli effetti distruttori dei nuovi strumenti del comunicare. Aggiunge anche De Kerckhove una osservazione per sottolineare come il merito di Conte sia anche quello, per esempio, di denunciare la patologia rappresentata dall'abbandono della scrittura a mano. All'esigenza prioritaria di rafforzare la scrittura a mano, scrive il prefatore, aggiungerei l'incoraggiare la lettura su carta piuttosto che su schermo e la garanzia che sia realmente sostenuta la libertà di pensiero. Il libro su carta, aggiunge De Kerckhove, è l'unico posto dove la parola si ferma e dove l'occhio del lettore la controlla completamente. Invece sullo schermo il lettore è prigioniero non solo del fascino della luce dello schermo, ma anche della voglia di interagire. Quindi mi raccomando, continuiamo a leggere i libri di carta. Di questi, di vari aspetti, parla dunque Conte, illustrandoci le trasformazioni profonde nel mondo della comunicazione, una trasformazione che ormai non riguarda più soltanto gli addetti ai lavori, come dicevo prima, ma ciascuno di noi che è attore quotidiano di questi cambiamenti. E su questo sentiamo l'autore. Buonasera ad Alberto Conte. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Alberto Conte, nel libro lei inizia dicendo, raccomandando di avere una visione, la chiama olistica, cioè capace di vedere tutti i particolari, di capire un po' tutti gli aspetti. Quali sono i particolari che rischiano di sfuggirci oggi quando parliamo di comunicazione? Questo va riferito a ciascun operatore, che si tratti di un editore televisivo, un editore della carta stampata, un'agenzia pubblicità. Secondo me ciascuno è troppo attaccato al proprio business e alle proprie, diciamo, rendite di posizione, intendendoci con questo ciò che ha funzionato fino ad oggi, per cui ci si dimentica di osservare il contesto, per cui per questo motivo da 15 anni i palinsesti TV non sono rinnovati, per cui le agenzie di pubblicità si sono a concentrarsi sull'acquisto vendite spazi, che è uno degli elementi che fanno guadagnare di più, e via di questo passo. Quindi stare troppo vicini ai propri interessi del proprio business ha tutto sommato reso un po' nebbioso tutto il contesto complessivo. Questo contesto è dominato da due fenomeni che ormai dominano da diversi anni: l'avvento del web e la interattività. Che cosa comportano questi due fenomeni? Da un lato, come aspetti positivi, comportano che tutti noi, soprattutto in mobilità, possiamo informarci su qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, possiamo soprattutto interagire. Oramai ci dicono le statistiche che oltre il 60% degli atti di consumo avvengono dopo che i consumatori si sono informati direttamente su un sito di un'azienda, piuttosto che per comprarsi un'automobile, prima di andare al concessionario hanno già svolto tutta una serie di operazioni a casa propria. Quindi questo è l'aspetto vantaggioso. L'aspetto che crea problemi è che tutto questo provoca una enorme sovrabbondanza di informazioni che si sposa in un fenomeno paradossale con la progressiva mancanza di tempo che tutti hanno. Quindi per reagire a questa sovrabbondanza di informazioni, a questa mancanza di tempo, le persone si dedicano ad un atteggiamento di tipo multitasking, cioè cercano di fare più cose in contemporanea: guardare la TV, digitare la tastiera del tablet, rispondere al telefono e fare ancora addirittura altre cose. Allora questo atteggiamento, ahimè, che abbiamo battezzato la costante attenzione parziale, provoca un fenomeno grave, perché ciascuno dedica una porzione della propria attenzione, cattura frammenti e analizza frammenti e risputa frammenti. Questo lo vediamo a livello universitario, quando i giovani studenti vengono poi agli esami o alle tesi di laurea, hanno un pensiero del tutto frammentato e quindi non riescono più ad esprimersi in maniera strutturata, e poi lo vediamo nelle attività di tutti i giorni. Insomma, la velocità sta facendo agio sull'approfondimento, che è molto grave. E dal lato dell'offerta, come stanno reagendo i produttori di informazione a questo mercato sempre più dominato dal multitasking e dalla costante attenzione parziale? Secondo me commettono una serie di errori. Per esempio, i siti dei giornali hanno uno scroll magari di 2,5 metri, che è assurdo, perché se uno ha poco tempo non gli devi proporre così tante cose, devi fare una scelta editoriale, suggerirgli le notizie più importanti e usare tutto il resto, suggerire il resto quando è sotto menu. Lo stesso gli editori televisivi dovrebbero capire che il mondo web è un mondo a parte, quindi bisogna produrre dei contenuti apposta, perché per esempio un contenuto fruito su uno smartphone più di 1 o 2 minuti non viene guardato, non viene visto, non può essere il sottoprodotto di una fiction. Quindi sono dei mondi a parte, per cui bisogna cominciare a lavorare, da creare anche delle professionalità adatte per questo tipo di lavoro. Insomma, bisogna fare in modo di rispondere a questa richiesta di brevità senza rinunciare a una forma di approfondimento, è un esercizio non da poco. E lei nota che gli operatori meno reattivi, curiosamente, sono stati proprio i pubblicitari. Come mai loro che dovrebbero sentire per primi lo spirito del tempo? Perché purtroppo, e questo lo ammettono più o meno tutti, perché sono stati attaccati alle loro rendite, perché i loro azionisti li hanno obbligati a inseguire il guadagno più facile. Il guadagno più facile e più corposo era quello nell'acquisto spazi e non tanto nella creatività. E quindi adesso ci sono alcuni esempi, per carità, di agenzie anche internazionali che fanno delle cose splendide. La media sta ancora cercando di difendere, diciamo, il rubinetto da cui i quattrini entrano più facilmente. Il titolo del suo libro si riferisce a McLuhan. McLuhan è passato alla storia per il suo libro che diceva il mezzo è il messaggio. Adesso siamo, certo, nella fase in cui la gente è il messaggio. Qual è il salto? Il salto è clamoroso, nel senso che esistono ancora momenti largamente condivisi, come può essere Sanremo, come può essere il Super Bowl, ma oramai tutti quanti si fanno il proprio il palinsesto, guardano quello che vogliono. E quindi la comunicazione avviene in questo modo che potremmo definire virale, per cui si comunicano a cluster, a gruppi di popolazione che si incaricano poi di parlarne ad altri, che si incaricano di parlarne ad altri, eccetera, eccetera. In questo processo però avviene che ciò che viene comunicato è a rischio di essere trasformato, di essere commentato, di essere ridicolizzato, di essere accresciuto, dipende. E quindi come si fa a risolvere il problema? Bisogna che nella comunicazione iniziale ci sia un concetto talmente forte, talmente potente, talmente resistente, che anche quando arrivasse in fondo, sia pure diminuito, conterrà una parte della verità iniziale. Questo lo si può fare solo tornando alle vecchie abitudini in cui ci si approfondiva, si studiava, si trovava un concetto molto potente. Quindi bisogna un po', per affrontare il futuro bisogna saper tornare un po' indietro. E infatti lei nota la responsabilità di un mezzo ormai quasi obsoleto, cioè la televisione. La televisione ormai, oddio, funziona ancora, non è che, come dicevano molti, che la televisione è morta. La televisione oggi è vista soprattutto da un target molto anziano, che siccome gli anziani sono tanti, abbiamo letto sui giornali che ormai abbiamo raggiunto tutti la soglia dei 90, cioè riusciamo a vivere oltre i 90, e quindi chiaramente ci sarà un vasto pubblico. Però voglio dire, ci sono poi tutti dai 40 in giù, come li raggiungiamo questi? Gli editori televisivi, che probabilmente sono interessati a raggiungere questi pubblici in altro modo, devono cominciare a produrre apposta per questi gruppi, che non è semplice. E questi gruppi non devono a loro volta assumersi un po' di responsabilità anche nel cercare l'informazione migliore? Purtroppo questo è l'altro problema, io lo riscontro in università quotidianamente. I ragazzi 22enni, diciamo, non sono affatto interessati a essere informati. Loro si accontentano delle breaking news che gli arrivano dagli operatori telefonici, quindi 2 o 3 titolini al giorno, e approfondiscono un tema solo se qualche compagno lo ha trattato su Facebook. Allora a questo punto entrano nel merito. E quindi qua di nuovo bisognerebbe suggerire agli editori dei metodi per fare in modo di arrivare a interessare questi ragazzi. Alla fine anche questo, in copertina si vede una Dea Calì che fa, sì, con sei braccia, che fa sei cose, appunto, che dà l'idea. Come faccio io a interessare questa persona? Semplicemente, se io le racconto una storia estremamente interessante e coinvolgente, smetterà di fare tutto quello che fa per prestarmi attenzione. E quindi bisogna saper tornare ad una narrazione che la interessi profondamente. Quello che io le dico deve avere a che fare con la sua vita, con i suoi interessi, con il suo futuro, con il suo destino. E quindi tutte cose che richiedono lunghi approfondimenti e non semplicemente delle idee cotte e mangiate. Grazie ad Alberto Contri, autore di McLuhan non abita più qui. Buona serata. Grazie, grazie a voi. E sul tema dell'evoluzione dei nuovi mezzi di comunicazione, nonché sull'impatto che essa può avere sul modo stesso in cui ci rapportiamo agli altri, e dunque sul modo stesso e dunque sulle modalità classiche in cui abbiamo fatto politica per tanti secoli, interviene un filosofo tedesco di origine coreana, Byung-Chul Han. Il libro si chiama Nello sciame, visioni del digitale, pubblicato da Nottetempo, 108 pagine, 12 euro, ed è tradotto da Federica Bongiorno. Quello di Chul Han è un saggio breve, ma che ha suscitato un grande scalpore, perché è molto critico nei confronti delle nuove piattaforme informative basate appunto sul digitale. Spiega infatti l'autore, che si rifà anch'egli a McLuhan, che attraverso il medium digitale noi siamo riprogrammati senza comprendere pienamente questo radicale cambiamento di paradigma. Arranchiamo dietro al medium digitale che modifica in modo decisivo il nostro comportamento, la nostra percezione, la nostra sensibilità, il nostro pensiero, il nostro vivere insieme. Addirittura, nota l'autore, ci spoglia dello sguardo e fa l'esempio di quello che succede con Skype, dove gli sguardi degli interlocutori non si possono mai incrociare perché è sempre sfalsato lo sguardo rispetto alla telecamerina del computer. E questo ha conseguenza anche sulla politica. Qui ci sono delle osservazioni severe e molto attuali, non soltanto per la situazione italiana ma in tutto il mondo. Scrive infatti l'autore che se tutto viene subito reso di pubblico dominio, la politica rimane inevitabilmente con il fiato corto, si ritrova provvisoria e si esaurisce nella loquacità. Sotto il diktat della trasparenza, aggiunge, non si arrivano a discutere neppure opinioni divergenti o idee non convenzionali, difficilmente si rischia qualcosa. Insomma, conclude l'autore, la società dell'informazione scredita ogni fede, quindi la libertà stessa diventa un'illusione, sacrificata ai colossi che ammassano big data come Google o Facebook. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Adesso parliamo di un tema singolare, etereo, impalpabile, che ci introduce a un'attività alla quale ci dedicheremo fra poche ore, o per chi mi ascolta in replica, dalla quale siamo appena usciti: il sonno, che è spesso dominato dai sogni. E proprio di sogni parliamo. Il sogno è un tema che non ha mai cessato di affascinare anche gli scrittori e che ha assunto anche il significato non soltanto di appunto un'attività impalpabile, eterea, ma anche di un obiettivo che, per quanto remoto, possiamo non disperare di raggiungere. E allora inizio con un popolare scrittore italiano, Piero Citati, che dedica a questo tema, è considerato nelle sue varie sfaccettature, il suo ultimo libro, Sogni antichi e moderni, pubblicato da Mondadori, 398 pagine, 22 euro. Di sogni, miraggi, illusioni troviamo qui un lungo catalogo raccolto attorno a vari capitoli sul rapporto con Dio e con l'aldilà, sulle visioni del mondo, sulla morte, sulle riflessioni filosofiche, per concludere su alcuni esponenti notissimi della cultura più recente. Si parte da Giobbe, insomma, e si arriva fino a Bonhoeffer, il grande teologo. Che cosa lega tutte queste queste esperienze, citate non ce lo spiega, ma ci dà il piacere di scoprirlo leggendo le sue pagine. E il sogno di una vita piena di divertimenti domina per esempio la vita di Don Giovanni, ma di molti altri personaggi troveremo qui descritte le vicende. Il sogno ritroviamo nel titolo di un libro che raccoglie pezzi di vari autori italiani. Il libro si intitola La vita è un sogno, voci, volti, speranze e battaglie degli italiani dal 700 al 21 secolo, è pubblicato dal Saggiatore, 548 pagine, 22 euro. Questa è un'opera corale, come definita nella nota editoriale, che all'inizio ci spiega come la fonte principale del libro siano le testimonianze custodite all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Un materiale che qua cerca di comporre il ritratto di cui noi, maiuscolo, fra virgolette, ossia il popolo italiano, è il protagonista, noi colti nel periodo in cui dal 700 a oggi si forma una coscienza nazionale. E anche qui troviamo vari capitoli, un giorno qualunque, un futuro migliore, noi per noi e per i nostri figli, e forse a legare tutti questi interventi avrebbe giovato una presentazione che ci spiegasse la scelta e i criteri seguiti. Un sogno di vita che si realizza è quello raccontato da Margherita Giacobino nel libro Il prezzo del sogno, pubblicato da Mondadori, 282 pagine, 19 euro. Giacobino, che è traduttrice e scrittrice, ci racconta qui l'avventura di una delle più note scrittrici americane del Novecento, Patricia Highsmith, vissuta tra il 1921 e il 1995, è notissima per i suoi libri gialli. La Highsmith scappò dal Texas, approdò a New York per inseguire appunto il sogno di diventare scrittrice. L'ambiente non si rivelò molto accogliente, Patricia si rivelò divorata dall'inquietudine di riuscire, fu tormentata dalla sua omosessualità e al punto da lasciare l'America per approdare poi in Europa, dove finalmente troverà il successo. E Giacobino ci presenta questo personaggio febbrile, determinato, capace di dare spessore e concretezza ai propri sogni, con un impegno che diventerà bruciante, come dimostrano le righe che adesso vi propongo. L'azione, la lotta, il dilemma morale sono, nell'immaginazione dell'artista come del pubblico, prerogative maschili. I suoi eroi devono camminare a passi lunghi per il mondo, come vorrebbe fare lei, Pat, la ragazza alta ed inoccolata in jeans, le cui grandi mani capaci stringono con la stessa perizia il ferro da stiro e il martello. Pat, che cammina da sola per la città, che si appollaia sullo sgabello di un bar e fissa il vuoto, o meglio, i suoi fantasmi, finché non arriva un'amica a distrarla. Pat che rincasa alle ore piccole, la testa piena di parole, sulla pelle il profumo ancora caldo di una donna amata o inseguita. Pat, che si sente assillata dal tempo e dallo spazio. Come mettere a frutto più pienamente la sua giornata in un disciplinato susseguirsi di attività proficue? Certo, non ricadendo, come le capita troppo spesso, quasi sempre, nel vortice della notte, dell'alcol, delle parole, degli inseguimenti erotici, che quando hanno successo conducono ben presto a un senso di sazietà e quando non lo hanno, logorano i nervi in attese prima deliziose e poi frustranti. Solo il lavoro è bello, è sano, è morale. Solo il lavoro può salvarla. Gli ultimi titoli che sono stati pubblicati della Highsmith sono Come si scrive un giallo, teoria e pratica delle suspense, è pubblicato da Minimum Fax, 142 pagine, 8 euro, con la prefazione di Andrea Camilleri, Il talento di Mr. Ripley, che è il personaggio forse più famoso del Highsmith, questo è pubblicato da Bompiani, 330 pagine, 13 euro, Dei gatti e degli uomini, pubblicato sempre da Bompiani, 102 pagine, 10 euro, nel quale la Highsmith applica le proprie capacità di grande scrittrice di thriller alla complessa personalità dei gatti, spesso ospiti involontari di grandi opere letterarie. È nella stessa città nella quale Highsmith cerca di affermarsi, cioè New York, ma qualche anno dopo, nel 1960, si svolge la trama di Silvia, il libro di Leonard Michaels, un autore americano morto nel 2003. Il libro è pubblicato da Adelphi, 130 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Vincenzo Vergiani. Questo è un racconto autobiografico uscito come romanzo nel 92. Interessante peraltro perché ci porta nella New York di quell'anno, un anno di cerniera, con i grandi sconvolgimenti successivi, per esempio l'inizio del successo dei Figli dei Fiori. E questo libro racconta la bruciante storia d'amore con quella che sarebbe diventata la moglie dello scrittore, Sylvia Bloch, la quale poi si sarebbe tolta la vita al termine di un rapporto claustrofobico nell'ambiente del Greenwich Village, che avrebbe condotto la protagonista alla sconfitta. L'ambiente è fin troppo vivace, perché, come scrive l'autore, quasi tutti i nostri amici erano ebrei, neri, omosessuali, più o meno dediti alle droghe, molto intelligenti, molto nevrotici, una combinazione di due o tre di queste caratteristiche. Torniamo al sogno. Ci invita a saperli coltivare Sergio Barbarin, che è un autore australiano nato in Perù e vissuto a lungo negli Stati Uniti, surfista famoso e autore di libri che danno voce al suo impegno ecologista. Questo si intitola Beati Sognatori, la vera felicità è una scelta del cuore, Spelling e Kupff, 152 pagine, 15,90 euro, tradotto da Alessandra Padoan. È un libro nel quale l'autore riafferma l'impegno, o meglio ci richiama l'impegno contro il consumismo e l'ambizione del possesso, un libro stile un po' New Age per aiutarci a prendere la vita come viene. E a questo punto il confettino. Restiamo in tema con Sogno d'inverno di Hélène Kerylys, con le grandi illustrazioni di Stéphane Girel, tradotto da Laura Molinari e Vera Minazzi per Yakabook, costa 14 euro. Qui è un sogno molto particolare che troviamo raccontato, perché ci introduce al mondo di uno dei maggiori artisti del Rinascimento, cioè Peter Bruegel, che sembra riassumere in uno dei suoi capolavori l'avventura domenicale capitata alla piccola Maiken, la cui vita si trasforma quasi in un sogno dominato da un uccellino che la bambina ha messo in salvo. Ultimi arrivi. Vi presento innanzitutto questa sera la nuova attesissima prova di un autore che ha avuto un enorme successo col suo primo libro, La verità sul caso Henri Kéber. Lo ha scritto lo svizzero Joel Dicker, di cui adesso si pubblica il libro dei Baltimore. È pubblicato dalla Nave di Teseo, 588 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Vincenzo Vega, in cui ritroviamo gli ambienti e alcuni personaggi, tra cui lo stesso narratore, del primo fortunato romanzo, condotto di nuovo col ritmo del thriller. Qui è Martus Goldman, le cui vicende si intrecciano in una saga familiare dai contorni inquietanti. Poi vi segnalo di Andrea Vitali, Viva più che mai, pubblicata da Garzanti, 548 pagine, 18,60 euro, un nuovo titolo del popolarissimo autore di racconti e gialli lacustri dal carattere unico e caro a tanti lettori. E infine un altro nome noto, quello di un'attrice, Veronica Pivetti, Mai all'altezza. Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice, pubblicato da Mondadori, 162 pagine, 17 euro, nel quale l'attrice racconta i propri mancati complessi a partire da quello di essere troppo alta, per proseguire poi con varie disavventure che non hanno mai fiaccato e scalfito la verve dell'autrice. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.